Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti, giovedì 10 giugno, bentornati a Liberi Dentro ed Uradio, ora in onda su Radio Città Fujiko, le Teletricolore e Lepida TV, canale 118. Io sono sempre Caterina, alla conduzione di questo programma, talk che parla tra il carcere e la città di Bologna, già dallo scorso anno. E buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Oggi apriamo parlando di un'esperienza che ha preso avvio a Genova. Infatti leggo da acri.it, Genova, genitori detenuti e figli, un legame da mantenere. Perché così? Quando una persona detenuta entra in carcere, se viene arrestata, entra nel carcere, non solo viene separata dal mondo dal punto di vista delle comunicazioni, ma se è genitore e entra in carcere, l'intero sistema familiare viene stravolto e spesso i figli rischiano di essere i primi a essere messi in penombra. E allora le case circondariali di Marassi e di Ponte Decimo di Genova, consapevoli di questa problematica, hanno coinvolto le realtà territoriali con cui da sempre collaboravano, dando vita a La Barchetta Rossa e La Zebra, un progetto che ha rimesso al centro l'importanza della genitorialità e del legame affettivo tra genitori detenuti e figli, e con la Fondazione Rava e tanti altri enti del territorio ha ridato vita e colore alle sale d'attesa e agli spazi per i colloqui all'interno degli istituti di pena. Caterina, la cosa che mi piace di più di questo progetto è che non si ferma a tutelare i bambini in realtà, ma valorizza soprattutto il ruolo genitoriale dei detenuti, che rimangono sempre i genitori. È proprio così, infatti considera la genitorialità un fattore positivo nel percorso riabilitativo e come spiega Livia Botto della cooperativa sociale Il Biscione, una dei partner del progetto, la genitorialità permette di rafforzare gli strumenti positivi che ogni persona possiede, anche chi ha commesso un reato, perché stimola gli aspetti affettivi, la generosità, una visione a lungo termine e soprattutto infonde speranza, cosa che dentro il carcere non è per niente scontata. I detenuti infatti vengono accompagnati in un percorso che li fa riscoprire genitori e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Pensa che se prima i genitori, quando nell'area di colloquio parlavano tra di loro lasciando il bambino in disparte, ora invece lo coinvolgono e giocano con lui. E questi risultati sono anche sotto gli occhi degli agenti, perché dice la stessa Livia Botto, per gli agenti vedere i detenuti che giocano con i propri figli significa identificarsi, scoprire lati comuni in un clima anche di comprensione reciproca. Quindi grazie alla collaborazione con la UEPE, che è l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, questa iniziativa accompagna le famiglie anche dopo l'uscita dal carcere, nella ricerca di lavoro che è naturalmente necessario per una reintegrazione dignitosa nella società. Caterina, questo progetto, La Barchetta Rossa e La Zebra, mi sembra veramente ad ampio raggio, molto inclusivo, diciamo un lavoro a 360 gradi. Infatti ha coinvolto realtà del territorio, quasi tutte, in un lavoro di sinergia, che può davvero rappresentare un modello innovativo di un programma per tante carceri. E come afferma la stessa Maria Vittoria Rava, lei dice l'obiettivo è mutuare questa esperienza maturata a Genova anche in altre carceri, tenendo conto della specificità naturalmente di ogni territorio. I genitori devono poter essere genitori sia fuori che dentro al carcere. E quindi anche noi di Euduradio molte volte abbiamo parlato di genitorialità, quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori a scriverci, a raccontarci che cosa significa essere genitori anche in una condizione dove i figli si possono vedere poco, ma si può essere sempre degli ottimi genitori lo stesso, e ci auguriamo che nasca una figura di operatore barchetta rossa a livello nazionale. Sì Caterina, perché quando si diventa genitori si è genitori sempre e per sempre, quindi sarebbe bello ci fosse questa figura. Che cosa ci presenti oggi? Restiamo con i Guns N' Roses, Live and Let Die. This ever-changing world in which we live in makes you Rieccoci, bentornati dopo la nostra pausa musicale. Oggi continuiamo sempre su Liberi Dentro Edu Radio parlando di migrazioni, vero Antonella? Sì, parliamo di migrazioni e nello specifico parliamo dei diari multimediali migranti, che è un concorso nazionale che raccoglie e fa conoscere le storie di persone di origine e provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia o nella Repubblica di San Marino. Il concorso ha due obiettivi precisi, quello di riunire e custodire un patrimonio culturale che rischia di essere perduto e di contrastare gli stereotipi sulla migrazione. E quindi è un concorso che ha avuto luogo anche quest'anno nonostante la pandemia? Ti sembrerà strano, ma per fortuna anche quest'anno ha funzionato. Infatti siamo arrivati alla sesta edizione ed è riservato a racconti autobiografici inediti, perché ogni anno c'è un po' un tema diverso, presentati in forma scritta anche con il supporto di documenti diversi, fotografie, immagini, email, lettere, disegni, cartoline, musica, video, insomma un po' di tutte, da persone di origine o provenienza straniera che vivono o che hanno vissuto, come vi dicevo, in Italia o nella Repubblica di San Marino, che partecipa al progetto. E per fortuna è stato anche prorogato il termine di presentazione, infatti hanno potuto continuare a presentare le loro proposte anche a fine maggio, era molto prima la scadenza. Le testimonianze tra l'altro potevano essere redatte in lingua straniera, purché accompagnate da una traduzione che ne permettesse la comprensione. Come di consuetudine, i vincitori del concorso hashtag Dimmi saranno annunciati in occasione del 37° premio Pieve Saverio Tutino, previsto per settembre 2021. Ma raccontami un po' l'esito di tutta questo concorso. Le testimonianze saranno raccontate in un libro o in un'altra forma e poi rese pubbliche? Le testimonianze selezionate saranno raccolte in un volume pubblicato da Terre di Mezzo Editore entro l'anno successivo. Terre di Mezzo è un editore indipendente, come ce ne sono tantissimi in Italia, e voglio veramente spezzare una lancia in loro favore, perché pubblicano libri bellissimi, spesso non pubblicabili o non pubblicati da editori più importanti. Comunque, Terre di Mezzo opera nel settore dell'editoria, ovviamente, degli eventi e del turismo sostenibile. Ecco, questo è un valore aggiunto. È un piccolo universo in cui abitano molti mondi. L'editoria poi fa la cosa giusta, che è la fiera del consumo critico e stili di vita sostenibili. Poi c'è anche l'associazione di volontariato Insieme nelle Terre di Mezzo, che ha ideato e conduce la Grande Fabbrica delle Parole, un laboratorio di scrittura creativa per bambini. E Terre di Mezzo, come vi dicevo, è un editore indipendente che pubblica di solito 45 libri l'anno più o meno, tra cui guide per il turismo lento, albi illustrati e narrativa. È molto interessante una collana che stanno pubblicando, che si chiama Percorsi, ed è dedicata a chi viaggia a piedi o in bicicletta, come il Cammino di Santiago o la Via Francigena, e gli itinerari da scoprire in tutta Italia e Europa, tra cui i cammini accessibili anche alle persone con disabilità. Ma Antonella, il concorso si chiama Hashtag Dimmi, come mai? Si chiama così perché il progetto Dimmi nasce nel 2012 con l'intento di riunire e custodire un patrimonio culturale che rischierebbe altrimenti di essere perduto, e come ti dicevo soprattutto e anche per contrastare gli stereotipi sulla migrazione. Attraverso cosa? Attraverso la testimonianza diretta di chi l'ha vissuta in prima persona. E ad oggi ci sono la bellezza di 400 testimonianze donate da persone provenienti da circa 50 paesi diversi. E in più il fondo Dimmi rappresenta anche una fonte di informazione e conoscenza per gli studiosi e per le future generazioni, anche perché c'è un archivio dei diari in cui sono custodite e conservate tutte queste testimonianze a futura memoria. Veramente bellissimo, e spero che chi ci ascolta si interessi e magari chieda di partecipare, sarebbe veramente bello. Che musica ascoltiamo? Restiamo ad ascoltare il blues del Niger con Mdou Mokhtar, e chitarrista che ha imparato a suonare grazie a, insomma, all'ispirazione di Jimi Hendrix, tra l'altro è anche mancino anche lui, e pensate che ha costruito la prima chitarra quando era piccolo con i fili dei freni di una bicicletta. e la sua musica può essere furiosa, ma anche dolce e psichedelica, è veramente un bellissimo autore. Ascoltatelo. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro. Oggi iniziamo una nuova rubrica col nostro cappellano Marcello Mattè. Buongiorno Marcello. Buongiorno, buongiorno. Intitolata Colloqui con il cappellano. Il tema di oggi è incontrare chi è credente non all'interno del carcere, perché da quando entri alla Dozza, Marcello, come cappellano avrà incontrato sicuramente molti volti, molte storie di persone detenute. E la domanda che ti volevo fare è se tu riesci nei colloqui a raggiungere e incontrare anche persone di altre fedi e di altri credo o che non hanno credo. Guarda, come cappellano garantisco un'attività di tipo istituzionale, la celebrazione della messa festiva, l'accompagnamento ai sacramenti, più spesso è la cresima perché viviamo ancora in un contesto in cui il battesimo e la prima comunione li hanno ricevuti da bambini, ma qualche volta non di rado anche la celebrazione del sacramento della confessione, che potete immaginare in questo contesto ha un significato piuttosto particolare. Però al di fuori di questa attività istituzionale, nei colloqui ad esempio, la maggior parte delle persone che incontro si dichiarano di fede diversa o da quella cristiana, soprattutto musulmana, oppure non si riconoscono in alcuna confessione religiosa. Da una parte devo dire che è affascinante vedere che davvero la fede è qualcosa di intimo e di personale, tanto che ognuno ha la propria fede, il proprio credo. Eppure questo non impedisce di capirsi, perché sono convinto che la fede sia un anelito, un'aspirazione, un bisogno che ci accomuna. Dall'altra parte sono sempre più convinto che l'immagine di Dio che ognuno coltiva nel proprio sentimento religioso abbia una forte incidenza sulla nostra vita, anche nella vita quotidiana. È diverso che io mi senta soprattutto amato da Dio o soprattutto giudicato da Lui. È una diversità che alimenta un atteggiamento diverso, proprio un approccio diverso alla vita, anche nelle cose che faccio. Le mie azioni quotidiane sono animate da uno spirito diverso, a seconda dell'immagine che mi porto di questo Dio al quale devo la vita e che accompagna questa mia vita. Quanto all'incontro con chi si dichiara non credente, devo dire che sono state davvero tante le circostanze nelle quali mi riconoscevo anch'io decisamente ateo nei confronti di quel Dio che veniva negato o rifiutato dalla loro scelta. Personalmente trovo conforto nel Vangelo di Gesù in questa opera di liberazione, di purificazione della mia fede dall'incrostazione di una religiosità asfittica. Infatti proprio su questo ti chiedi mai tu se la tua religione possa essere di conforto verso le persone che stai incontrando e se possa esserci un dialogo spirituale, per così dire, anche senza un comune terreno di fede. Sono del tutto convinto che un dialogo, anzi il dialogo, sia sempre possibile perché i contenuti della propria fede, direi di qualunque fede, o sono fondati sulla nostra umanità o sono, perdonatemi il termine, disumani. O la nostra religiosità, la nostra fede, il nostro credo, le nostre aspirazioni ci ambiscono a renderci più profondamente uomini, più profondamente persone, oppure credo che ci sia qualcosa di falsato se attribuiamo alla religione obiettivi diversi. Parto dal presupposto che il divino non annulla né si sovrappone all'umano, anzi direi che lo esalta e che siamo tanto più figli di Dio quanto siamo più figli degli uomini. Se riusciamo nel dialogo con queste persone a crescere come persone, saremo cresciuti anche come persone religiose, come credenti. Lo spirito non mortifica il corpo, anzi io sono convinto che lo anima, lo cura, lo guarisce, quindi lavorare insieme, parlare insieme, fare qualche cosa insieme per aiutarci a crescere nello spirito, migliora la qualità della nostra vita, di questo sono convinto. Io credo in un Padre che sta nei cieli, ma credo anche che i cieli siamo noi, perché credo nelle parole di Gesù che ha detto: se amate, e quando amate, io e il Padre veniamo e prendiamo dimora in voi. Quando invoco il Padre nostro che sta nei cieli, non invoco un Dio lontano, invoco un Dio che è più intimo a me di me stesso, e sono convinto che questo sia anche per l'altro. Perciò nel cercare la persona, nel cercare l'uomo, io sto cercando Dio e non posso cercare Dio se non cerco l'incontro con il mio fratello. L'amore è ciò che ci fa vivere e se non fa vivere non è amore e comunque non viene da Dio. E Dio sa, non tanto per dire, di quanto amore, di quanto spirito c'è bisogno in un carcere. Grazie Marcello, lanciamo una canzone, la lancio io questa volta e tu chiudi, e allora io lancio Uguali e diversi di Gianluca Grignani. Né più bianco né più nero della guerra sono stanco, ho fatto un sogno più sincero, ho fatto un sogno che ti canto. Mi svegliavo stamattina, faccia e corpo colorati, e i giornali e la televisione non sembra da me. Ero in guerra ed ero a casa, ero a terra ed ero in volo, ero e non so più chi sono, ma lì certo sono un uomo che si svegliava stamattina. Televisione. Rieccoci, bentornati, riprendiamo i nostri colloqui con il cappellano, siamo con Marcello Mattè e stiamo parlando del tema dell'incontro anche con chi non è credente o ha una fede differente all'interno del carcere. E Marcello, c'è qualche storia, qualche incontro particolare che tu ricordi e anche qualche testimonianza di vita che ha lasciato un seme anche dentro di te? Senz'altro mi porterò sempre il ricordo di un incontro con un uomo che stava al penale, che aveva davanti ancora un certo numero di anni da trascorrere in carcere. Devo dire che ci incontravamo con una certa frequenza, anche perché si stava preparando per lui qualche possibilità di percorso all'esterno. Io davo la mia disponibilità per accompagnarlo ai permessi. Ogni tanto nella nostra conversazione si parlava di fede. Un giorno però mi ha detto: guarda Marcello, ho sempre pregato almeno tutte le mattine e tutte le sere, soprattutto per la mia famiglia, di cui sento la mancanza e so che anche loro sentono la mia mancanza. Adesso però, padre Marcello, ho deciso di non pregare più. Non perché non creda più, non saprei vivere senza fede, mi diceva, ma perché sono stanco di chiedere qualcosa a Dio, anche se ho bisogno di sapere che Lui si prende cura della mia famiglia. Ma non voglio più chiedergli niente, non voglio costringerlo. Ho imparato, stando in carcere, il valore della libertà e allora gli dico semplicemente: sentiti libero di fare quello che vuoi per me. Sono certo che anche tu hai bisogno di libertà. Devo dire che quelle parole mi hanno toccato nel profondo e gli ho rubato quella preghiera. Ora anch'io dico spesso a Dio: non ho nulla da offrirti, però non ho nemmeno nulla da chiederti. Per quanto mi riguarda, ti regalo la libertà. È bellissimo, è una bellissima testimonianza. Allora, che musica lanciamo? Che cosa ti viene in mente? Guarda, sull'onda di queste ultime parole vorrei lanciare Let It Be dei Beatles. Sì, ascoltiamola. E ci vediamo la prossima volta, siccome hai parlato anche di sacramenti che a un certo punto le persone detenute chiedono, approfondiamo questo, prossimo giovedì. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be. dopo aver ascoltato Marcello Mattei, il cappellano del carcere della Dossa, noi ci ridiamo appuntamento tra poco, se ci state seguendo sull'Epida TV, ore 13.30 con le rubriche Oggi parliamo di, dove avremo i dialoghi sulla cittadinanza con ospite Valeria Collina, oppure alle ore 17 su Teletricolore. Scriveteci redazione liberidentro @gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 136 Bologna. Ci rivediamo domani, sempre ore 9 Radio Città Fujiko, ore 13 Lepida TV e ore 10.30 Teletricolore. A domani e buona giornata a tutte e tutti. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.